Mashhad. Ci incamminammo a piedi verso il luogo santo con le nostre macchine fotografiche nascoste sotto il braccio, non avendo ottenuto i permessi necessari dalle autorità di Teheran, senza dubbio troppo oberate di lavoro per potersi occupare di noi. Malgrado le nostre reiterate visite per sollecitarne l'interessamento. In caso di arresto speravo di evitare il sequestro degli apparecchi, grazie a un vecchio documento ormai scaduto del mio viaggio precedente. I larghi viali mi ricordarono Tashkent, donne dall'aria stanca, senza copricapo e vestite di una palandrana grigia, andavano al mercato con un cesto al braccio. Passavano carretti russi, le tipiche troiche con tiri ben assortiti di cavalli dalle criniere spesso di quel colore carota tipico delle barbe dei vecchi, segno sicuro che erano state tinte con l'henné. Al cinema i sottotitoli erano in russo o in iraniano e nei negozi vi era sempre qualcuno che sapeva il russo. La nuova propaganda antireligiosa contribuiva a creare rassomiglianze, peraltro superficiali, anche qui come a Kiev o a Bukhara. Il recente ospedale era stato costruito con il denaro confiscato alle fondazioni ecclesiastiche. Ufficialmente il luogo di pellegrinaggio era aperto ai non musulmani, ma in realtà costoro venivano accettati di malavoglia. Quel regolamento infatti feriva i sentimenti religiosi della maggioranza. Una sorta di imbarazzo ci indusse a non soffermarci troppo nei numerosi edifici e, superato il grande cancello di ferro battuto, diventammo ancor più timide e nervose. Con la massima discrezione ci dirigemmo verso gli uffici dopo aver attraversato il primo cortile, quello principale, un quadrato di 140 metri di lato, delimitato da due piani di arcate, era stato costruito all'inizio del XVII secolo dallo Shah Abbas. Quell'astuto monarca, giunto da Isfahan a piedi come un pellegrino, era risoluto a promuovere l'edificazione di una moschea in Persia per dirottare il continuo flusso di fedeli che fino ad allora aveva arricchito unicamente i luoghi santi dell'Iraq e dell'Arabia. Al centro di ogni lato si ergeva uno splendido iwan, il caratteristico chiostro delle moschee iraniane. Ogni centimetro di muro brillava di lucenti maioliche, ma ciò che differenziava questo cortile da ogni altro era l'oro che risplendeva ovunque. Oro sui minareti e lungo tutta la volta profonda degli iwan, oro che scintillava con serena opulenza sulla cupola bombata sovrastante la tomba. Le lastre di rame dorato lasciavano intravedere le giunture e, leggermente convesse, richiamavano alla mente una qualche sontuosa tappezzeria d'oro imbottita. Intorno alla cupola sfavillante, una striscia d'oro ramata non aveva altro ornamento che un'iscrizione storica. Quale stupore! Dinanzi a tale spettacolo deve provare il contadino che null'altro ha visto se non le semplici case d'argilla battuta del suo villaggio o le pietre infuocate del deserto. Nella rientranza di un grande portico dalla volta dorata, l'entrata del mausoleo appariva come l'oscuro antro di una caverna ogivale. Da lì si accedeva al cuore stesso del sacrario d'oro. Pregammo un ufficiale di condurci fino al famoso sepolcro. Forse nell'intento di temporeggiare, egli volle prima mostrarci i tesori della biblioteca, 18.000 libri circa, tra cui 5.000 corani, alcuni dei quali erano preziosi capolavori. Ogni pagina racchiudeva un tesoro di disegni originali, colorati con arte squisita. Sui margini si intrecciavano arabeschi azzurri e dorati, motivi floreali verdi e rubino, e in così gran numero che avrebbero potuto ispirare un intero stuolo di artisti in cerca di nuove idee. Rilegato in pelle di serpente, il Corano di Ali era vergato in splendidi caratteri cufici. Curiosando tra i ripiani, vidi con sorpresa libri come La rivoluzione francese di Thiers e persino I tre moschettieri. In una grande stanza dove faceva bella mostra un ritratto di Ali, srotolarono per noi tappeti rari, tra cui quello chiamato Le quattro stagioni, confezionato a Kerman nel 1650. I suoi mille riflessi cambiavano continuamente a seconda del punto di osservazione. Questo luogo santo doveva certamente contenere un immenso tesoro accumulatosi in 10 secoli di offerte da parte dei fedeli. Ali ibn al-Rezza nacque nel 770. e a 30 anni divenne capo del casato di Ali e imam degli sciiti, mentre Harun al-Rashid era califfo della setta sunnita a Baghdad. Al-Rashid morì nel corso di una battaglia per domare una rivolta scoppiata nella zona di Samarcanda. Il figlio, al-Ma'mun, sperando di unire sunniti e sciiti, proclamò l'imam Reza erede del califfato e gli diede in sposa sua figlia. Gli sciiti se ne rallegrarono, ma non così i sunniti di Baghdad, scandalizzati per simile innovazione. Al-Ma'mun si trovava dunque in una situazione oltremodo pericolosa quando, per sua fortuna, fu salvato dalla scomparsa di Reza, che morì per un'indigestione di uva nell'819. Gli sciiti affermano che la frutta era avvelenata e non mancano mai di maledire Harun e al-Ma'mun allorché visitano la tomba dell'imam. Eravamo soprattutto ansiose di vedere la camera tombale al piano terreno, ma la guida indugiava. Un rumore soffocato di folla saliva verso di noi. Quando accennai ancora una volta a scendere la stretta scala, il nostro accompagnatore disse che era ormai troppo tardi e che a quell'ora la grande affluenza di pellegrini avrebbe rappresentato un pericolo. Eravamo state avvertite dell'eventualità di un tale contrattempo, ma come fare a evitarlo? Attraverso una finestrella a occhio di bue, Cristina guardava in una sala scura gremita di gente. Le descrissi la mia visita di 2 anni prima. I custodi a cui ero stata affidata mi avevano detto di compiere gli stessi loro gesti e insieme avevamo raggiunto lo sciame ronzante dei pellegrini, folla compatta che avanzava come una marea, gemendo, cantando e pregando all'unisono. Il brusio era diventato un clamore allorché eravamo penetrate in una sala sonora i cui muri rilucevano grazie a innumerevoli specchietti scintillanti. Avanzando, sommersa da una moltitudine avida, tra 1.000 occhi ardenti e come allucinati, ero alfine arrivata nella camera tombale. Al pari degli altri avevo baciato una grande porta d'argento, splendidamente lavorata a sbalzo. Come loro avevo appoggiato la fronte madida di sudore su una parete di marmo rosa, ma non ero andata oltre. Essi infatti cadevano in trance, guardavano senza vedere, mentre io, assolutamente lucida, osservavo tutto nei dettagli. Sotto un baldacchino, in un angolo della stanza, si trovava la tomba, protetta tutt'intorno da una balaustra d'argento e coperta da un drappo di raso blu. In quello spazio limitato, il frastuono si dilatava, tuonava, rimbombava come il mare in tempesta dentro una grotta. Le sbarre d'argento erano accarezzate, baciate, toccate in uno slancio di adorazione che consumava l'intero essere dei fedeli e si partecipavano della santità dell'imam. I pellegrini mormoravano preghiere, urlavano, piangevano senza quasi rendersene conto, trascinavano i piedi, si strusciavano contro i muri santi. Occhi di donne brillavano febbrili sotto copricapi di feltro deformati, uomini in turbante evocavano belve affamate. Questo mondo non esisteva più per loro. La passione li aveva trasformati. Erano stati in presenza di un qualcosa di incommensurabilmente grande. Non avrei dovuto essere là. Osservarli in quel modo così freddo, così indiscreto, era quasi sacrilegio. Era certo il momento più importante della loro vita, un istante durante il quale miracolosamente andavano al di là di se stessi. Chi ero io per permettermi di esaminarli? I pellegrini mi guardavano senza vedere, soltanto 2 vecchi barbuti mi stavano osservando con l'aria di sapere bene chi fossi. Sembravano costernati, i loro volti esprimevano tale contrarietà che avrei voluto scusarmi. Se mi avessero linciata avrebbero avuto, credo, la mia approvazione. Ero indietreggiata con poca dignità, raramente avevo provato un simile imbarazzo. Mi ero chiesta se anche in Europa i fedeli compivano i loro pellegrinaggi con un entusiasmo tanto intenso. Nonostante la mia eccitazione, e questo dimostra quanto l'intelletto funzioni in maniera indipendente, avevo continuato a percepire i prosaici ticchettii di un pendolo di fattura grossolana che impassibile scandiva i secondi. Lasciandoci alle spalle quel mare di rumori, Cristina e io ci inoltrammo per uno stretto passaggio che conduceva alla pace di Jawhar Shad, moschea perfetta a un solo cortile. Nella grande città, tra la sua massa di case in terra essiccata, questo santuario si rivelava improvviso quale un bacino di luminosa acqua turchina. Vi entrammo sentendoci subito rinfrescate come da un bagno in mare aperto quando le onde blu notte si increspano gioiosamente di bianco. Due piani di arcate inquadravano il semplice cortile arricchito da ogni lato da un bellissimo iwan, ognuno decorato da mosaici smaltati di tinte incantevoli. Due minareti, decorati di scure losanghe, affiancavano il chiostro principale, la cui entrata ombrosa era sovrastata da un frontone quadrato illuminato da chiari fiori di smalto. Sulla facciata era incastonata la seguente iscrizione, datata al 1418. Mediante i suoi beni privati e per il beneficio del proprio stato futuro, Jawhar Shad costruì questa grande moschea, Baisungur, figlio di Shah Rukh, figlio di Tamerlano Gurkan, scrisse questo sperando in Allah. Gurkan, il Khan universale, è il supremo titolo turco-mongolo utilizzato dalle tribù dei Kereiti e dei Karakitani. Al di sopra del grande chiostro si alzava l'enorme ellissi di una cupola turchese ornata di eleganti arabeschi chiari. Nel cortile bianco come schiuma marina, un fregio calligrafico correva lungo i quattro muri di ceramica multicolore, mentre un bacino per le abluzioni rifletteva quella visione gioiosa, le sue felici proporzioni, i radiosi colori e l'imperitura armonia. Tamerlano morì nel 1405. Nello stesso anno la nuora, Jawhar Shad, intraprese la costruzione della moschea. A Herat avremmo visitato la tomba di quella donna straordinaria. I mosaici di Jawhar Shad erano di una bellezza quasi pari a quella delle decorazioni danneggiate della moschea blu di Tabriz e senza dubbio più incantevoli dell'insieme di maioliche commissionate dalla Shah Abbas per il grande cortile dell'Imam Reza. Il procedimento adottato per la fabbricazione di queste ultime è chiamato Haftrengi, i sette colori, che possono essere accostati sulla mattonella prima della cottura. Ogni tinta, non separata da quella accanto, come nelle incrostazioni di mosaici, risulta meno netta e precisa, come trascolorata. Con tale sistema si ottengono tonalità non molto intense, poiché ogni colore ha il suo proprio grado di cottura ottimale. Mi sedetti sul bordo del bacino quadrato. Al mattino avevamo visto come si tessevano i tappeti e ora sapevo che il tappeto da preghiera, dalle belle colorazioni, è la versione in lana dei mosaici del portico ogivale, che a sua volta riprende la magnificenza delle illuminazioni coraniche. E queste tre forme d'arte, le più alte della Persia, si ispirano probabilmente ai giardini, dalle splendide aiuole fiorite, nette superfici geometriche costellate di corolle variopinte, cornice di ogni istante della vita in questo paese di sole implacabile. Mi sentivo attratta da quella moschea e me ne chiedevo la ragione con una certa curiosità. Fino ad allora il mio entusiasmo si era indirizzato soprattutto verso un'arte solida a tre dimensioni: la torre di Kabus, l'auriga di Delfi, la grande muraglia cinese, la purezza di Vézelay, la solidità del Partenone. Che cosa mi accomunava a quel santuario, spazio aperto delimitato unicamente da quattro pareti di mura colorate e come laccate? Era l'incanto di un'eccelsa maestria di costruzione? Preferivo non di meno i turchesi e i blu oltremare degli smalti di Samarcanda, forse perché colà per la prima volta avevo ammirato le ricche vibrazioni dei due colori sovrapposti. A quel tempo, sui tetti della madrassa a Tin Lakari, vicino a Piazza Righestan, dove avevo affittato una stanzetta, ogni sera mi soffermavo a rimirare il tramonto del sole. Conoscevo dunque in ogni particolare la cupola greve sovrastante l'alto tamburo tutto coperto di caratteri arabi. Tin Lakari era una riproduzione non troppo fedele, ma si trovava a pochissima distanza da Ulugbek, la splendida moschea collegiale che prendeva il nome dal famoso astronomo figlio di Jawhar Shad. Molti degli antichi monumenti di Samarcanda sono in rovina e il loro aspetto ispira un vago senso di malinconia, l'audace cupola spezzata di Bibi Chanim, che ancora sfida il cielo verde-blu del crepuscolo, le vestigia della bella arcata antistante, il mausoleo di Tamerlano, il cammino dei sepolcri di Shah Izind, palazzi e padiglioni di caccia che si sgretolano nella campagna. Si predilige forse ciò che è in procinto di scomparire? L'emozione di fronte al Partenone sarebbe altrettanto intensa se pitture e dorature fossero ancora intatte? Tempo, guerre, scosse sismiche hanno devastato Herat, ma il poco che resta, una tomba e qualche minareto perduto in un campo di grano, mi commuove come l'ultimo sorriso di un amico. Perfettamente conservata, la moschea di quella donna straordinaria che fu Jawarshad non ha il fascino delle rovine. Abbas Abad. L'imam Reza è il protettore dei viaggiatori e mi piace pensare che fu lui a venirci in aiuto il giorno in cui lasciammo Mashhad dirette verso la frontiera afghana. La contrada si stendeva vasta e monotona, eccezione fatta per due leoni in terracotta che ci osservarono passare per il villaggio di Fariman, proprietà dello scià. Quelle statue dorate aspettavano pazientemente l'arrivo del padrone, annunciato ormai da 3 anni. A mezzogiorno raggiungemmo la triste zona di Torbat Sheikh Jam, un agglomerato di case che inesorabilmente si sgretolavano, ritornando alla terra di cui erano fatte. Alcuni uomini in pantofole bighellonavano là intorno, una sigaretta spenta all'angolo della bocca, altri sorseggiavano il contenuto del loro bicchiere in una chai cana polverosa. Alcuni clienti aspettavano seduti sulle sedie traballanti del barbiere, mentre altri in piedi chiacchieravano con il benzinaio. Un bambino scarmigliato si trascinava dietro un agnello belante. Si aveva l'impressione che Torbat subisse senza reagire una qualche calamità inflittale dal destino. Fu allora che un gendarme venne a interrogarci nella stanza semidiroccata dove da poco ci eravamo rifugiate per sfuggire all'accecante riverbero della strada e alla persecuzione di cimici indiscrete. Venivamo dal grande mausoleo di Sheikh Jam che avevamo visitato dopo un pasto a base di melone e focaccia, ristorandoci nella sua oasi di frescura e di pulizia ai piedi dell'alta ogiva di una moschea. Al di là del cortile lastricato e delle tombe in marmo, avevo scattato alcune fotografie a una donna piangente su un tumulo appena alzato. Allora l'ufficiale, con in mano il mio vecchio permesso, ci chiese se avessimo fotografato altro e poi si allontanò portando con sé il documento scaduto, non prima però di averci avvertito di non lasciare la nostra camera. Dopo poco ritornò e pretese un'autorizzazione più valida. Feci finta di non capire, minacciai di lamentarmi con il suo superiore. Per nulla impressionato, l'uomo ci precedette per avvertire il capo del nostro arrivo, lasciando a un collega l'incarico di sorvegliarci. Architettammo la fuga. Cristina salì in macchina e quando la guardia cercò di fermarla, ingranò la marcia dicendo che aveva bisogno di benzina, mentre io, simulando una colica, sparii con scarsa disinvoltura dietro un muro e poi dietro un altro, cercando di nascondere le mie vere intenzioni. Spostandomi sempre più in fretta, raggiunsi Cristina e, tremanti di eccitazione, ci demmo alla fuga. Così si svolse la nostra breve visita al villaggio che diede il nome a Jami, poeta, sapiente e mistico tradotto da Fitzgerald e di cui l'imperatore Babur scriveva che era già troppo incensato per doverne fare altri elogi. Jami morì alla fine del XV secolo, mentre si trovava alla corte di Herat, dove vivevano i grandi uomini del suo tempo. Quella sera dovevamo passare la dogana iraniana a Karez e naturalmente prima avremmo tolto le pellicole dai nostri apparecchi. Se li avessero scoperti, avremmo detto di non averli usati, anche se, non essendo sigillati, ci sarebbero stati comunque confiscati. La nostra grande paura era che telefonassero a Torbat avvertendo che eravamo scappate. Allora saremmo state veramente perdute. La regione sembrava sempre più abbandonata. I Khanat erano in disuso. I loro crateri quasi scomparsi, come sgretolati dall'impeto dei venti. I borghi avevano cambiato aspetto. Invece dei consueti tetti piatti, costruiti con rami di pioppo e terra, vedevamo piccole cupole, splendide nel loro gioco di ombre e di luci. Le case si mantenevano più fresche e d'altronde le coperture di legno, se anche fossero esistiti alberi in questa regione del Khorasan, non avrebbero resistito agli eserciti delle invisibili termiti. Alcuni di quegli emisferi avevano la sommità a forma di botola da suggeritore. Era una presa d'aria aperta a nord in direzione del vento di 120 giorni, che è il solo a rendere possibile la vita nella stagione estiva. Tali bocche d'aria differiscono completamente dagli alti ventilatori sormontati da un pannello quadrato che danno a Hyderabad Sindh un profilo di stupefacente singolarità. In quella città ogni casa è sovrastata da un immenso aquilone, orientabile secondo la direzione del vento. Nei campi circostanti, coperti all'apparenza soltanto da ciottoli, raccoglievano meloni che poi facevano seccare a fette su quelle strane cupole. Le donne portavano lunghe tuniche sopra ampi pantaloni annodati alla caviglia. Una stretta fascia manteneva a posto il loro fazzoletto da testa. La conformazione dei volti, rotonda e piena, ricordava quella degli Hazara afghani, dei kazaki e kirghisi del Turkestan. Fermammo la macchina più vicino possibile a un khan abbandonato. Nell'ombra il forte vento ardente offriva sorprendenti aliti di aria fresca. Fuggendo il paesaggio accecante, ci sedemmo al riparo di una cisterna coperta. Cristina era immersa in pensieri che mi confidò, dimostrandomi ancora una volta la sua grande sensibilità. A Mashhad avevamo incontrato una giovane coppia di francesi che, provenienti da Parigi, erano intenzionati a raggiungere l'Indocina in bicicletta. La donna aveva abbandonato il foro per il manubrio, il marito era un alpinista. In passato egli mi aveva scritto per chiedermi se era possibile arrivare a Kashgar in bicicletta passando per la catena dell'Himalaya. Aveva letto infatti un mio articolo dove asserivo che i cammelli, seppur aristocratici, erano compagni ingombranti e che nulla impediva a un ciclista di raggiungere il Tibet per la via di Pechino. Insieme avevamo passato ore gradevoli e divertenti, nuotando lieti nella piscina del consolato, vagabondando per i vicoli del bazar, mercanteggiando sul prezzo di tappeti e gioielli o su profumi dozzinali e calze dai colori squillanti. Cristina, che parlava un francese poco scorrevole, essendo di madrelingua tedesca, si era sorpresa nel vedermi così allegra e scherzosa con Nicole e Raymond, e ne aveva dedotto di essere per me una compagnia noiosa e che io avrei preferito continuare il viaggio con i miei nuovi amici. Desiderò essere già in grado di muoversi da sola. Ammisi la mia buona intesa con questa coppia, ma le chiesi che cosa mai avrebbe pensato Nicole se le avessi detto, per esempio, che studiavo l'Afghanistan, contrada fino ad allora poco praticata dagli occidentali, perché volevo innanzitutto osservare l'Europa da una diversa angolazione, al fine di comprendere la causa profonda della nostra instabilità. E che, dopo tale esame, mi auguravo di arrivare a capire come i miei contemporanei avessero smesso di vivere in accordo con il proprio cuore. Dall'altra parte di quella frontiera, ormai così prossima, avremmo sperimentato un modo di vita patriarcale, semplice e armonioso, in cui forse si dava ancora spazio a un fattore misterioso chiamato divino, mentre sul nostro continente, dove gli uomini, come novelli Prometei, si sono attribuiti ogni potere sulla natura, incombeva la follia. Che cosa avrebbe detto Nicole se le avessi confessato che la mia suprema aspirazione era di liberarmi del mio io faticoso, dei miei desideri sempre mutevoli e spesso privi di saggezza? Non volevo, per arrivare a tanto, né togliermi la vita, né gettarmi a corpo morto nei viaggi da un paese all'altro, come avevo fatto fino ad allora, e neppure prestare la mia opera presso qualche lebbrosario dove certo un ego, tra virgolette, vanitoso e ingombrante avrebbe perso di peso. Deve esistere un processo più logico che raggiunga il medesimo scopo, un mezzo razionale con cui aprirsi un varco nel nostro io e mutarlo. No, Cristina. Sono contenta di sapervi al mio fianco perché so di essere capita. La paura era sempre presente in lei. Mi diceva, soltanto per poche ore nel corso degli ultimi mesi era riuscita a superarla. Non era il desiderio della droga a tormentarla. Non ne traeva alcun piacere se non un lungo momento di pace, l'unico che conoscesse. Il suo vero terrore era di diventarne schiava. Nell'ingenua speranza di aiutarla, le rivelavo quanto fino a quel momento avevo tenuto per me. Siete sicura che tale condizione non sia in realtà una scelta per vivere pienamente coniugando pensiero ed emozione in un'angoscia tutta vostra, nella speranza che il dolore stesso diventi in tal modo gioia di vivere più intensamente della norma? Sono tuttavia convinta che sprofondando nella sofferenza ne sarete al contempo sua prigioniera. Simile sentimento può arricchire soltanto chi lo trascende, chi facendone l'esperienza ha percepito quali profondità siano insite in esso. In maniera distaccata, come un dottore che parli di un paziente qualsiasi, Cristina osservò che una persona spesso si droga per eccitare le proprie facoltà, per dilatare il campo della coscienza. Lei, per contro, aveva come unico scopo di dimenticare il proprio tormento, ma otteneva ben modesti risultati. Mentre mi chiedevo come potesse esserne ancora e sempre tentata, avendo potuto farne a meno per mesi e mesi, dissi: un giorno avrete l'audacia di far fronte alla paura. In essa e grazie ad essa conquisterete la vostra vera natura. Lessi ad alta voce e con estrema lentezza un passo del pensatore indiano Sri Aurobindo tratto da Considerazioni e pensieri. La coscienza di essere e il godimento di essere sono al contempo parenti primi e ultime trascendenze. L'incoscienza non è che un mancamento intermedio della coscienza o il suo sonno oscuro. Il dolore e l'annientamento di sé sono soltanto la felicità di essere che si allontana da se stessa per ritrovarsi in altro modo e altrove. Le domandai ancora se quanto aveva provato non le avesse insegnato che anche la droga ha i suoi limiti. Immaginavo che al momento non fosse tanto quel tipo di esperienza ad attrarla, ma la sua forma, la perversità di inseguire ciò che una parte di sé condannava come contronatura. Cristina era impaziente di arrivare al fondo di quel cammino per vedere quale ne fosse la meta. Sperava di raggiungere un esito positivo, sia pure attraverso una pratica negativa. Allora avrebbe forse saputo di non essere vincolata alla natura e alle sue leggi. Avrebbe percepito in sé una libertà oltre i confini fisici. Entrando così nel mondo dello spirito, ne avrebbe sperimentato l'immediata realtà. Non sarebbe più stata ossessionata dalla necessità di combattere il proprio demone. Andata oltre e gustato finalmente il pieno sapore del suo essere, di cui l'amore è l'energia motrice, avrebbe avuto qualcosa a cui aggrapparsi nei momenti di ricaduta, o almeno si sarebbe spezzato quel circolo vizioso, essere assillata dal dover dimenticare la propria paura. Fino ad allora il suo ricordo l'avrebbe costretta ogni volta a forgiare un nuovo anello di quella catena che la terrorizzava. La strada scorreva dritta. La terra grigia intorno a noi era come uno schermo vuoto sul quale proiettavamo in successione i profili di Thomas Edward Lawrence e di Alain Gerbault. Secondo quanto sapevamo, il primo, incapace di sopportare il peso dei pensieri, aveva cercato di anestetizzare il proprio cervello diventando un semplice soldato a cui non si chiede di riflettere. L'altro, non attribuendo valore alcuno alle idee influenzate dalla mentalità europea, aveva scelto la Polinesia per vivere di vento, di mare, di sole e di poesia. Morirà nel dicembre del 1941 di febbre tropicale nell'isola portoghese di Timor. La fuga, tra virgolette, era stata per entrambi un tentativo di allontanarsi dai propri pensieri ormai divenuti intollerabili. Cristina subiva un identico grave disagio. Nel tardo pomeriggio raggiungemmo Carez. Il cortile della dogana era sgombro di camion. Il Reis, il capo, ci trattenne per oltre un'ora nel suo ufficio, cercando di scoprire dove erano finite 30 delle nostre sterline che, contrariamente alla legge, non risultavano nelle distinte dei nostri passaporti. Mostrandogli tutti i conti dal giorno della partenza da Ginevra, sommando le spese, potevamo provargli di non aver mai posseduto tale somma. La cifra segnata era un errore commesso al momento della nostra entrata nel paese. Non so se riuscimmo a convincere il Rice, fatto è che egli lasciò perdere e si diresse verso la nostra Ford. Tali incidenti, quello di Torbat e ora questo, contribuivano a renderci sempre più eccitate prima ancora di aver raggiunto la frontiera afghana, tappa fra le più importanti del nostro viaggio. Confidando nei suoi privilegi diplomatici, Cristina dichiarava che tutto il bagaglio, eccetto una valigia, era suo. Sperava così di evitare sia ispezioni nella cassetta dei negativi, sia domande sui nostri apparecchi fotografici. Ritenendo che i doganieri sarebbero andati a guardare di preferenza negli angoli più riposti, avevamo sistemato le cineprese sotto il mio sedile, proprio accanto alla portiera. Una volta richiusa la mia valigia, vi fu un lungo e quasi insopportabile momento di pausa. Che cosa stava passando nella testa di quell'uomo? Alla fine ci chiese se avevamo una pomata per occhi infiammati. Al nostro sollecito assenso fece scendere la figlia da quella stessa terrazza dove avevo dormito 2 anni prima e noi le facemmo dono dell'unguento richiesto. Tirammo un sospiro di sollievo. Probabilmente Torbat non si era messa in comunicazione con Carez, ma vi era ancora un ostacolo da sormontare. Ormai era buio e il Rais era convinto che saremmo state sue ospiti per la notte. Gli esternammo il nostro desiderio di proseguire, ma non potete percorrere 16 chilometri di Bled a un'ora simile, anche in pieno giorno la pista è appena visibile. Temendo che una sosta implicasse ulteriori complicazioni, proprio quando la meta era vicina, mentimmo deliberatamente. Che l'imam Reza ci perdoni, spiegammo che non potevamo far attendere oltre i nostri mariti alla frontiera afghana e che guidare nella notte tra le ombre imprecise della steppa non costituiva per noi un problema, anzi era il massimo dei piaceri. Il Rais restò assai sorpreso e il piede di Cristina premette sull'acceleratore avviando il motore. I fari illuminarono la strada davanti al cortile della dogana e noi partimmo.